Marlborough Mill e le abitazioni adiacenti erano stati presi a lunga locazione, ma dovevano, se possibile, essere riaffittati. Subito un ventaglio di soluzioni si presentò al signor Thornton. Humper sarebbe stato più che contento di assumerlo come socio affidabile ed esperto di suo figlio, che stava investendo un enorme capitale in una città vicina. Tuttavia, il giovane non aveva le nozioni necessarie, non conosceva altra responsabilità che non fosse quella di fare soldi e si dimostrava sconsiderato in qualsiasi circostanza. Thornton si rifiutò di far parte di una società che avrebbe frustrato i pochi progetti che gli rimanevano e che erano sopravvissuti alla rovina del suo patrimonio. Avrebbe accettato volentieri la più semplice posizione di amministratore che gli avrebbe consentito un certo grado di potere oltre un mero guadagno, piuttosto che doversi imbattere negli umori dispotici di un danaroso socio con cui era sicuro sarebbe arrivato ai ferri corti nel giro di pochi mesi. Sicché rimase ad aspettare, stando in disparte con sincera umiltà, mentre in borsa si diffondeva la notizia dell'enorme fortuna che suo cognato aveva fatto con la sua rischiosa speculazione. Sarebbe stato un fuoco di paglia. Il successo portò con sé ammirazione in tutto il mondo. Non c'era nessuno che potesse essere considerato più saggio e lungimirante del signor Watson. 51. Incontrarsi di nuovo. Era una calda estate. Edith entrò nella camera da letto di Margaret, la prima volta nel suo abito da giorno, la seconda agghindata per la cena. All'inizio non trovò nessuno, poi vide Dixon che posava sul letto un abito di Margaret, ma Margaret non si vedeva. Edith si fermò lì, tutta agitata. Oh, Dixon, non quegli orribili fiori blu su quel vestito color oro pallido. Che gusti! Aspetta un momento, ti porto qualche fiore di melograno. Non è color oro pallido, signorina, è giallo paglierino e il blu sta sempre bene con il giallo paglierino. Tuttavia Edith aveva già portato sgargianti fiori scarlatti prima che Dixon fosse arrivato a metà della sua rimostranza. Dov'è la signorina Hale? Domandò Edith non appena ebbe provato l'effetto dell'ornamento. Non posso pensare, continuò con voce stizzosa, che mia zia le abbia permesso di prendere abitudini così sconclusionate a Milton. Di certo avrò sempre paura che qualcuno mi venga a dire che le è successo qualcosa di terribile in uno di quei posti infelici in cui va a cacciarsi. Io non avrei mai il coraggio di camminare per quelle strade senza un domestico. Non sono posti per signore. Dixon era ancora infastidita perché il suo gusto era stato così disprezzato, che rispose piuttosto bruscamente: Non mi sorprendo affatto quando sento le signore parlare così tanto del loro essere signore, e anche quando sono signore così spaventate, delicate e graziose. Dicevo che non mi sorprendo che non ci siano più santi sulla terra. Oh, Margaret, eccoti, ho avuto tanto bisogno di te. Guarda che rosse che sono le tue guance per il caldo, povera cara. Oh, se penso a quello che ha fatto quel fastidioso di Henry, davvero ha superato i limiti di un cognato. Proprio dopo che la mia festa era stata preparata nei minimi dettagli e adattata così bene al signor Colthurst, ecco che è arrivato Henry scusandosi, è vero, e usando il tuo nome per scusarsi, e mi ha chiesto se poteva portare quel signor Thornton di Milton, il tuo affittuario, sai, che è a Londra per alcune questioni legali. Mi scombinerà il numero. Non mi importa della cena, non ho fame, disse Margaret a bassa voce. Dixon può portarmi una tazza di tè e me ne starò in salotto fino a quando non vieni di sopra. Sarò ben lieta di stendermi un po'. No, no, così non può andare. Hai un aspetto terribile, è vero, ma è soltanto il caldo e non possiamo proprio fare a meno di te. Quei fiori, Dixon, un po' più in basso. Sembrano due magnifiche fiamme, Margaret, sui tuoi capelli neri. Ti ricordi che abbiamo programmato che parlerai di Milton al signor Colthurst? Oh, certo, quell'uomo viene da Milton. Oh, credo che andrà benissimo dopo tutto. Il signor Colthurst potrà fargli il terzo grado su argomenti che gli interessano e sarà molto divertente riscontrare le tue esperienze e l'opinione di questo signor Thornton nel prossimo discorso che farà in Parlamento. Davvero, credo che quello di Harry sia un bel colpo. Gli ho chiesto se Thornton, a parer suo, è un uomo di cui ci si vergognerebbe e mi ha risposto: Non se avete un po' di buonsenso dentro di voi, mia cara cognata. Suppongo che sappia pronunciare la H, cosa che comunemente nel Darkshire non sono capaci di fare. Eh, Margaret? Il signor Lennox non ha detto per quale motivo il signor Thornton è venuto in città? Si tratta di questioni legali legate alla sua proprietà? Chiese Margaret con voce forzata. Oh, È fallito o qualcosa del genere? Harry te ne parlava quel giorno che avevi un gran mal di testa. Cos'era? Oh, perfetto, è splendido, Dixon, così. La signorina Hale ci fa onore, non è così? Vorrei essere alta come una regina e scura come una zingara, Margaret. Ma riguardo al signor Thornton. Oh, non ci capisco proprio niente di questioni legali. Harry non desidererà altro che dirti tutto al riguardo. Ho solo capito che il signor Thornton è a corto di soldi, che è un uomo molto rispettabile e che devo essere cortese con lui. E visto che non so come fare, sono venuta a chiederti di aiutarmi. E adesso scendi con me e riposati sul divano per un quarto d'ora. Il privilegiato cognato arrivò per primo e Margaret, arrossendo mentre parlava, si mise a fargli domande, ponendole in modo che le risposte riguardassero il signor Thornton. È venuto per questa faccenda del subaffitto della proprietà, Marlborough Mill, con la casa e gli edifici annessi, intendo. Non è più in grado di mantenerla. Ci sono vari atti e contratti da esaminare e accordi da stipulare. Spero che Edith lo accolga adeguatamente, ma era alquanto seccata, come ho potuto vedere, per la libertà che mi sono preso pregandola di invitarlo. Tuttavia ho pensato che voi avreste voluto che gli si mostrasse un po' di considerazione e bisognerebbe essere particolarmente attenti nel mostrare rispetto a un uomo che sta letteralmente colando a picco. Aveva abbassato la voce per parlare con Margaret mentre le sedeva accanto. Tuttavia, non appena finì di parlare, balzò in piedi e presentò il signor Thornton, entrato in quel momento, a Edith e al capitano Lennox. Mentre il signor Thornton era occupato nelle presentazioni, Margaret lo guardava con occhi ansiosi. Era passato ben più di un anno dall'ultima volta che lo aveva visto e tutte le cose che in quel lasso di tempo erano successe lo avevano cambiato profondamente. La figura sottile lo faceva sembrare più alto degli altri uomini e gli conferiva un aspetto distinto per quella calma con cui si muoveva che gli era naturale. Tuttavia, il suo viso pareva invecchiato e segnato dalle preoccupazioni. Eppure dal suo aspetto traspariva una nobile compostezza che insieme al suo decoro e alla forza virile impressionava quelli che avevano appena sentito della sua mutata situazione. Era consapevole sin dalla prima occhiata all'interno della stanza che Margaret fosse presente. Aveva colto il suo sguardo completamente assorto mentre ascoltava il signor Harry Lennox e avanzò verso di lei come un vecchio amico, i cui modi seguono formalità ben precise. Alle prime calme parole che pronunciò, un evidente rossore fece avvampare le guance di Margaret, che per tutta la sera non ritornarono mai al loro colore naturale. Lei pareva non avere molto da dirgli, lo deluse per il modo dimesso con cui domandò quello che gli parve il minimo indispensabile riguardo le vecchie conoscenze di Milton, ma arrivarono altre persone più intime di lui in quella casa e si ritirò sullo sfondo dove di tanto in tanto conversava con Lennox. La signorina Hale ha proprio un bell'aspetto, disse il signor Lennox. Non trovate? Milton non si accordava con la sua natura, immagino. Poiché appena arrivata a Londra ho pensato di non aver mai visto una persona così cambiata. Stasera sembra molto radiosa ed è molto più forte. Lo scorso autunno si stancava per una camminata di un paio di chilometri. Venerdì sera siamo andati a piedi fino a Hampstead e ritorno, e sabato aveva lo stesso aspetto che adesso. Noi? Chi? Loro due soli? Il signor Colthurst era un uomo brillante e un promettente membro del Parlamento. Aveva un occhio acuto nel distinguere il carattere delle persone e rimase colpito da un commento che il signor Thornton fece durante la cena. Chiese a Edith chi fosse quel signore e con sua grande sorpresa la signora Lennox scoprì, dal tono del suo davvero, che Thornton di Milton non era affatto per lui un nome sconosciuto, al contrario di quello che si era immaginata. La cena che aveva organizzato stava proseguendo bene. Harry era ben disposto e mise in evidenza in modo eccellente il suo umorismo amaro e sarcastico. Thornton e Colthurst avevano trovato un paio di argomenti di comune interesse che toccarono soltanto superficialmente, riservandoli per i discorsi più intimi del dopocena. Margaret era bellissima, con i fiori di melograno, e sebbene stesse appoggiata allo schienale della sedia e parlasse poco, Edith non se ne dispiaceva, poiché la conversazione fluiva tranquillamente senza di lei. Margaret stava osservando il viso del signor Thornton, lui non la guardava mai. Avrebbe potuto studiarlo senza esser vista e notare i cambiamenti che persino quel breve lasso di tempo aveva prodotto in lui. Soltanto ad alcune battute del signor Lennox, sul suo volto appariva all'improvviso quell'espressione di intenso diletto di un tempo. Gli ritornava negli occhi quella gaia luminosità, le labbra si schiudevano appena per suggerire il meraviglioso sorriso di una volta, e per un istante il suo sguardo cercò quello di lei, come se volesse la sua comprensione. Tuttavia, quando i loro occhi si incontravano, cambiava completamente espressione. Era ancora una volta serio e preoccupato, e con una certa risolutezza evitò di guardare persino nella sua direzione durante la cena. C'erano soltanto due signore oltre a loro alla festa, e dal momento che queste erano state coinvolte in una conversazione da sua zia ed Edith, quando andarono di sopra in salotto, Margaret si dedicò svogliatamente al suo lavoro di cucito. Poco dopo salirono i signori, il signor Colthurst e il signor Thornton erano impegnati in un dialogo confidenziale. Il signor Lennox si avvicinò a Margaret e disse piano: «Credo che Edith mi debba ringraziare per il mio contributo alla sua serata. Non avete idea di che persona piacevole e giudiziosa sia questo vostro affittuario. È stato l'unico a fornire al signor Colthurst tutte le informazioni di cui voleva venire a conoscenza. Non riesco a concepire come abbia fatto a gestire male i suoi affari». «Con il suo potere e le sue possibilità voi avreste avuto successo», disse Margaret. Non gradì molto il tono con cui si era pronunciata, sebbene la frase non esprimesse altro che un pensiero che era passato per la mente anche a lui. Poiché Lennox rimaneva in silenzio, colsero un crescendo nell'intensità delle parole che Colthurst e Thornton si stavano scambiando nei pressi del caminetto. «Ve l'assicuro, ho sentito che ne parlavano con grande interesse, o piuttosto dovrei dire con curiosità, visto il risultato. Ho sentito fare spesso il vostro nome durante i miei brevi soggiorni nella zona». Poi persero alcune parole e quando riuscirono a sentire di nuovo stava parlando il signor Thornton. «Non ho gli elementi per avere fama. Se hanno parlato di me in quel modo si sbagliavano. Non mi butto a capofitto in nuovi progetti e trovo difficile farmi conoscere persino da quelle persone con cui desidero entrare in confidenza e con cui non avrei assolutamente alcuna riserva. Eppure, nonostante questi limiti, sentivo di essere sulla strada giusta e che, partendo da un rapporto amichevole con uno, stavo diventando amico di molti. Erano reciproci i vantaggi. Stavamo insegnando gli uni agli altri, inconsapevolmente e consapevolmente qualcosa. Dite stavamo? Spero che intendiate continuare sulla stessa strada». «Oh, devo interrompervi, Colthurst», disse Harry Lennox frettolosamente, «e con una domanda brusca ma appropriata deviò il corso della conversazione, in modo tale da evitare al signor Thornton la mortificazione di ammettere l'insuccesso e il conseguente cambiamento della sua posizione. Tuttavia, quando quell'argomento appena introdotto si esaurì, il signor Thornton riprese il discorso proprio dal punto in cui era stato interrotto e diede al signor Colthurst la risposta alla sua domanda. Gli affari sono andati male e ho dovuto svestire i miei panni di industriale. Sono alla ricerca di un impiego a Milton che mi permetta di essere assunto da qualcuno propenso a lasciarmi fare a modo mio in questo genere di questioni. Posso contare solo su me stesso perché non ho alcuna assodata teoria da precipitarmi a voler mettere in pratica. Il mio unico desiderio è quello di avere la possibilità di coltivare con la manovalanza un rapporto che vada oltre il mero rapporto di cassa. Ma potrebbe essere come il punto che cercava Archimede per sollevare il mondo, a giudicare dall'importanza che gli attribuiscono alcuni industriali, che scuotono la testa e si irrigidiscono appena nomino uno o due esperimenti che vorrei tentare». «Noto che li chiamate esperimenti», disse il signor Colthurst, con un atteggiamento che lasciava intendere un interesse sempre maggiore. «Perché credo che siano tali. Non sono sicuro dell'esito che potrebbero avere, ma sono sicuro che bisogna testarli. Sono giunto alla convinzione che nessuna semplice istituzione, per quanto previdente e per quanti piani organizzativi e arrangiamenti possa aver messo a punto, possa riuscire ad amalgamare una classe all'altra come andrebbe fatto, a meno che non elabori dei progetti che portino gli individui delle diverse classi a un reale contatto personale. Questo scambio è proprio il fulcro della vita umana. Un operaio difficilmente può essere portato a sperimentare e a riconoscere quanto il suo padrone possa aver faticato nel mettere a punto progetti a beneficio della sua forza lavoro. Un progetto completo risulta come un congegno, apparentemente idoneo a ogni emergenza, tuttavia gli operai lo usano come fanno con le macchine, senza capire l'intenso lavorio mentale e la lungimiranza che sono stati necessari per portarlo a una tale perfezione. Invece io prenderei un'idea il cui sviluppo necessiterebbe di un apporto personale. Potrebbe non funzionare all'inizio, ma a ogni ostacolo sempre più persone si sentirebbero interessate e alla fine il desiderio del suo corretto funzionamento sarebbe condiviso da tutti, perché tutti avrebbero avuto la loro parte nella messa a punto del progetto e persino in quel caso sono sicuro che il sistema perderebbe la sua vitalità, fallirebbe nel momento in cui non venisse più portato avanti secondo quell'interesse comune che immancabilmente conduce la gente a trovare i mezzi e i modi di incontrarsi, a familiarizzare con i rispettivi caratteri e anche e con gli umori e le forme di espressione. Dovremmo capirci meglio gli uni con gli altri, e oserò dire che dovremmo piacerci di più. E pensate che questo sistema potrebbe prevenire l'insorgere di scioperi? Niente affatto, l'aspettativa più alta che ho arriva soltanto a questo. Potrebbe evitare che gli scioperi siano le amare e velenose fonti di odio che sono state fino ad oggi. Un uomo più fiducioso potrebbe immaginare che un rapporto più stretto e amichevole tra le classi condurrebbe al termine degli scioperi, ma io non sono un uomo fiducioso. Improvvisamente, come se una nuova idea gli fosse balenata in mente, si diresse verso il punto in cui Margaret era seduta e iniziò senza introduzione, come se avesse saputo che aveva ascoltato tutto quello che si erano detti lui e Colthurst. Signorina Hale, alcuni dei miei uomini mi hanno consegnato una petizione, sospetto che la scrittura sia quella di Higgins, in cui dichiarano il loro desiderio di lavorare per me, se mai mi ritrovassi nella posizione di assumere di nuovo degli operai a nome mio. È stata una bella cosa, non trovate? Oh, sì, bellissima, ne sono felice, disse Margaret alzando il viso e guardandolo dritto in faccia con occhi espressivi che poi riabbassò dopo aver incrociato il suo sguardo tanto eloquente. Rimase girato a fissarla per un minuto, come se non sapesse esattamente cosa fare. Poi sospirò e, dicendo «Sapevo che vi avrebbe fatto piacere», si voltò e non le rivolse più parola fino a quando non le augurò una formale buonanotte. Mentre il signor Lennox stava andando via, Margaret disse, con un imbarazzo che non fu in grado di reprimere con una certa esitazione, «Posso parlarvi domani? Vorrei il vostro aiuto per qualcosa. Oh, certamente, verrò a qualsiasi ora vogliate. Non potreste concedermi privilegio maggiore di quello di esservi utile. Alle 11? Molto bene. Gli brillavano gli occhi di gioia. Quanto stava imparando a contare su di lui. Sembrava che qualunque giorno, ora, avrebbe potuto portargli quella certezza, senza la quale aveva deciso che non le avrebbe mai chiesto di nuovo di sposarlo. 52. Mettere le nuvole da parte. La mattina seguente Edith girava per la casa in punta di piedi, sgridando sciolto suo marito tutte le volte che parlava a voce alta, come se qualche improvviso rumore potesse interrompere la riunione in corso in salotto. Arrivarono le 2 in punto ed erano ancora seduti lì con le porte chiuse. Poi si udirono i passi di un uomo che correva giù per le scale e Edith fece capolino dal salotto. «Allora, Harry?» chiese con sguardo interrogativo. Bene, disse lui alquanto bruscamente. Venite a pranzo? No, grazie, non posso, ho già perso troppo tempo qui. Ma allora non è tutto sistemato? Commentò Edith con aria battuta. No, per niente, non lo sarà mai, se con tutto intendete ciò che penso, non succederà mai, Edith, quindi toglietevelo dalla testa. Oh, ma sarebbe così bello per tutti noi. Piagnucolò Edith. Mi sentirei sempre tranquilla per i bambini se Margaret si sistemasse vicino a me, così come stanno le cose, ho sempre paura che si trasferisca a Cadice. Quando mi sposerò, cercherò una ragazza che sappia come crescere i bambini. Di più non posso fare. La signorina Hale non mi vorrebbe e io non le domanderò di sposarmi. Ma allora di cosa avete parlato? Oh, di migliaia di cose che non capireste, investimenti, affitti e valori dei terreni. Oh, andate pure, se è tutto qui. Entrambi sareste insopportabilmente stupidi se per tutto questo tempo aveste parlato di cose così noiose. Va bene, Verrò di nuovo domani e porterò con me Thornton per discutere ancora di alcune cose con la signorina Hale. E signor Thornton, che cosa c'entra lui? È l'affittuario della signorina Hale, disse il signor Lennox allontanandosi, e vuole recedere dal suo contratto d'affitto. Oh, va bene, non spiegatemi i dettagli, tanto non riuscirei a capirli. L'unico dettaglio che desidero capiate è quello di farci avere il salotto sul retro e di non essere disturbati, come oggi. Di solito c'è un tale viavai di bambini e domestici che non riesco mai a spiegare in modo soddisfacente una questione d'affari, e gli accordi che dobbiamo prendere domani sono molto importanti. Nessuno seppe mai per quale motivo il signor Lennox non si presentò all'appuntamento il giorno dopo. Il signor Thornton fu puntuale all'ora stabilita e dopo averlo fatto attendere quasi un'ora, Margaret entrò, molto pallida e turbata. Iniziò a parlare frettolosamente. Mi dispiace che il signor Lennox non sia qui, avrebbe potuto fare molto meglio di me, è il mio consulente in questa... Mi dispiace di essere venuto se questo vi disturba, potrei andare allo studio del signor Lennox e vedere se è lì. Oh no, grazie, volevo dirvi quanto mi abbia addolorato sapere che vi perderò come affittuario, ma il signor Lennox dice che le cose sicuramente miglioreranno. Il signor Lennox non ne sa molto, disse il signor Thornton a bassa voce. Felice e fortunato in tutto ciò che è importante per un uomo, non capisce che cosa voglia dire ritrovarsi non più giovani eppure rimandati al punto di partenza che richiede la fiduciosa energia della giovinezza. Non sa cosa significhi sentire che metà della vita è trascorsa e niente di fatto, niente che rimanga di un'occasione sprecata se non l'amaro ricordo che c'è stata. Signorina Hale, preferirei non sapere l'opinione del signor Lennox sui miei affari. Le persone particolarmente felici e fortunate sono troppo inclini a prendere alla leggera le disgrazie degli altri. Siete ingiusto, disse Margaret con tono pacato. Il signor Lennox ha parlato soltanto delle buone probabilità che lui ritiene ci siano per recuperare, più che recuperare, ciò che avete perduto. Non dite nulla finché non ho finito, vi prego. E ricomponendosi ancora una volta, continuò velocemente, sfogliando alcuni documenti legali ed estratti, conto in modo frettoloso e tremando da capo a piedi. Oh, eccolo qui, e mi ha redatto una proposta. Magari fosse qui per spiegarla. In base alla quale, se prenderete un po' del mio denaro, 1857 sterline, che sono attualmente giacenti in banca senza essere utilizzate e che mi danno soltanto il 2,5%, potreste pagarmi interessi maggiori e continuare a lavorare a Marlborough Mill. La sua voce si era fatta più chiara e ferma. Il signor Thornton non diceva nulla e lei continuava a cercare dei documenti che contenevano le proposte riguardanti la garanzia, perché era estremamente preoccupata che tutto venisse considerato come puro e semplice accordo di affari da cui fosse lei a trarre il maggior vantaggio. Mentre cercava questo documento, fu come se le si fermasse il cuore al sentire il tono con il quale il signor Thornton le si rivolse. La sua voce era soffocata e vibrante di tenera passione quando disse: Margaret. Per un breve attimo lei sollevò lo sguardo e poi tentò di nascondere i suoi occhi lucidi, abbassando la testa e coprendosi il volto con le mani. Di nuovo avvicinandosi, lui la supplicò, invocando con un altro fremito di passione il suo nome. Margaret. Lei abbassò la testa ancora di più e nascose ancora di più il viso che quasi sfiorava il tavolo davanti a lei. Si accostò al suo fianco, le si inginocchiò accanto per portare il viso più vicino al suo orecchio e in un sussurro pronunciò parole palpitanti. Attenta, se non dite nulla, avrò l'incredibile presunzione di considerarvi mia. Mandatemi via se me ne devo andare, Margaret. Sentendosi chiamare per la terza volta, si voltò con il viso ancora coperto dalle sue piccole mani bianche, continuando a tenerlo nascosto, ed era così delizioso sentire la morbida guancia di Margaret contro la sua che desiderò vedere l'intenso rossore e gli occhi pieni d'amore. La strinse forte a sé, ma rimasero entrambi in silenzio. Alla fine lei, con voce spezzata, bisbigliò: Oh, signor Thornton, non valgo abbastanza. Non valete abbastanza? Non schernite il mio sentirmi profondamente indegno. Dopo qualche minuto, dolcemente, le tolse le mani dal viso e mise le sue braccia nella stessa posizione in cui si erano ritrovate la volta che lo volle proteggere dai rivoltosi. Ti ricordi, amore, mormorò lui. E come ti ho ricambiata con la mia insolenza il giorno dopo? Oh, io ricordo il modo ingiusto in cui ti ho parlato, nient'altro. Guarda qui, alza la testa, voglio mostrarti una cosa. Lei lentamente sollevò il capo e lo guardò, illuminata da un incantevole imbarazzo. Riconosci queste rose? Disse, tirando fuori il suo taccuino nel quale erano gelosamente custoditi alcuni fiori secchi. No, rispose lei con innocente curiosità, te li ho dati io? Ma no, che assurdità, non me li hai dati tu. È molto probabile che tu possa aver indossato delle rose simili. Lei le osservò, in dubbio per un minuto, poi accennò un sorriso e disse: Ma vengono da Hailstone, vero? Riconosco i bordi frastagliati dei petali. Oh, sei stato lì? Quando? Volevo vedere il luogo in cui Margaret è cresciuta, per diventare quella che è adesso, persino nel periodo più sventurato di tutti, quando non avevo alcuna speranza di poterla considerare mia. Ci sono stato tornando da Havre. Devi darmele, disse tentando di togliergliele dalla mano con delicata violenza. Va bene, soltanto che devi darmi qualcosa in cambio. Oh, come farò a dirlo alla zia Shaw? Sussurrò dopo un momento di squisito silenzio. Lascia che sia io a parlarle. Oh no, aspetta me. Ma che cosa dirà? Posso già indovinarlo. La sua prima esclamazione sarà: Ah, quell'uomo! Shh, disse Margaret. O dovrò provare a mostrarti l'espressione indignata di tua madre mentre dice: Ah, quella donna! Fine.